grande opera di importanza storica che questa nazione salverà. E per la grande opera tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà. Una grande opera, macchina economica che i massoni rifocillerà. E la grande opera, stupido chi sciopera, quante bastonate prenderà. Grandi opere che iniziano ma che non finirà. Perché arrotolo cartine che non si chiamano Rizla. Edifico è scasso, va magro e non collasso. Lo stemma della crew è una squadra col compasso. Parliamo in codice, talmente in codice che a volte nemmeno tra noi ci capiamo un claxon. Palazzinari fieri, geometri ingegneri e novizi iniziati con arti osceni. Lì si traveste da Vadi Susa e in una stanza chiusa se ne abusa penetrando lì coi treni. Non abbiamo premi per gare di salto in alto, ma premiamo per vincere le gare d'appalto. Siamo balene in un mare di tanto planto. Noi quelli dritti, voi fritti come Phantom. Mi canottieri se la canottano. Solo se giochiamo la partita IVA. Viva la diga, e Dio la benedica. Ma non tratterrebbe nemmeno la mia vescica. Noi devastiamo il fondale, abusando della credulità popolare. Tu non chiamare il CICAP. Uno spazio porto si farà, conquisteremo pure il vinceranno le elezioni. Piacere! Io mi chiamo Caparezza! Io mi chiamo Luigi delle Bicocche, sono muratore! Lavorare qui è un incubo, ma in giro si pensa solo alla festa di inaugurazione. Pare che ci veniamo a ballare nei cantieri!